Iniziamo questa mattinata qui in radio e ringraziamo i compagni e le compagne che sono qui insieme a noi, che sono venuti insomma, a portare il loro contributo qui a Radio Onda Rossa. E siamo con la rappresentante del CNI e del CIG, che come tanti e tante sapranno è il Congresso Nazionale Indigeno Zapatista che sta invadendo pacificamente tutta quanta l'Europa con la carovana. Innanzitutto grazie per essere qui. Siamo qui appunto per questa intervista che ci piacerebbe chiamare più un confronto, più che un'intervista qui in radio. E quindi cominciamo subito con le domande. Da qualche mese la carovana è in giro per l'Europa e quindi la prima domanda che volevamo fare come radio era appunto: come sta andando il viaggio? Come è partito e soprattutto quali sono le prime impressioni? Ver si acá en estas otras geografías si organizan así como lo hacemos Allora, en buongiorno a México tutti e a tutti. y si les ha Diciamo, le funcionado impressioni ese tipo di fino adesso sono state organización molto importanti e y molto también nosotros positive poderles per la platicar delegazione lo del que CNI. estamos haciendo E loro sono venuti para qui proprio poder per detener este conoscere le despojo lotte, que le está llevando resistenze, i este fratelli, le sistema sorelle, i compagni e capitalista. le compagne, le Entonces, lo que organizzazioni hemos che qui visto es resistono que hemos contro il encontrado capitalismo. organizaciones, Fratelli e sorelle, colectivos, studenti, sono venuti cooperativas, proprio per vedere come in estudiantes, questa geografia così mujeres, lontana, come ci organizaciones de organizziamo e mujeres come que funzioniamo, están luchando e y se per están spiegare a noi come organizando y funzionano están loro e cosa defendiendo fanno también per este resistere planeta a questa de ser spoliazione destruido. capitalista Entonces, che eso vivono nos lì in hermana, Messico. hermana, Hanno incontrato porque organizzazioni, justamente, collettive, aunque estamos lejos, cooperative, pero studenti estamos in sintiendo lotta que che tenemos un difendono questo enemigo pianeta che comune, viene que ese continuamente enemigo común es distrutto. grande, Ci es considerano e ci fuerte, como sentono decimos come allá, fratelli e y sorelle tiene lontani sus e tentáculos lontani, en todos ma con un lados, nemico comune y si che è todos grande, vamos forte, espande i suoi destruyéndolo poco a tentacoli ovunque poco sul pianeta, y ma haciendo algo se tutti diferente, ci lo mettiamo in podremos gioco per lograr. Entonces, los distruggerlo pocos con le días que nostre llevamos, o diversità e casi ya trovare la mitad, qualcosa, per costruire hemos qualcosa di visto que sí diverso, hay esas resistencias, y sí hay riusciremo nel esas nostro luchas, obiettivo. y sí hay In questi posibilidad pochi de poder giorni hanno seguir visto che caminando effettivamente sì, juntos a anche qui c'è distancia, una pero sí resistenza con un e una mismo possibilità di objetivo, camminare acabar uniti con a este distanza, sistema ma de muerte y construir per, come uno dire, per nuevo que lavorare dé per vida appunto para smetterla con los questo demás. sistema e costruirne uno di nuovo. Su Radio Onda Rossa, una radio che fa una comunicazione militante per il zapatismo, per il CNI, è stato sempre molto importante quello che si chiama l'eje della parola, l'asse della parola, una forma diversa di fare comunicazione per arrivare di una forma migliore a chi ci ascolta. Quindi io chiederò su questo, come stanno lavorando in questi tempi, soprattutto di post-verità, no? Con tanta di quello che si chiama fake news, un asse importante come è stato quello della parola. Pues para nosotros es importante que se sepa lo que está pasando en las comunidades, en los pueblos Allora, sì, y que ovviamente la comunicazione è un los medios aspetto molto oficiales en importante México perché no hanno la creo necessità di far que sapere abran quello la che palabra, no succede transmiten lo que es al nelle comunità contrario, indigene, perché ovviamente tutti i media transmiten ufficiali del Messico danno tutta otra un'altra información narrazione que lesiona di a quello las che succede. comunidades. Non dà Entonces, spazio, ma raccoglie info che eso danneggiano ha hecho a que las le mismas comunidades comunità vayan con false creando sus notizie, propias appunto. herramientas de E questo comunicación quindi ha y spinto le unas varie son las comunità radios a comunitarias, autoorganizzarsi varias e que quindi están sono nate varie transmitiendo hasta esperienze en la di misma radio lengua comunitarie, las alcune comunidades addirittura para que nelle lingue pues native, ellos che è un altro mismos aspetto quello linguistico entiendan che viene ignorato. E questo entonces è il eso está modo che hanno surgiendo trovato per porque es una manera informare de e informarsi, informarnos, perché de parlando delle loro mantenernos notizie fanno anche informazione otros que interna. son un poco más Ovviamente non è creativos, l'unico no mezzo, altre solamente persone usan con un po' radio, più sino di que también las compagni e herramientas compagne con un po' più di técnicas de la creatività usano tecnología las anche están tutto il poniendo a panorama degli strumenti disposición al interior tecnici e del y por mezzo la del otra media a parte por lo disposizione escrito, ¿verdad? Lo delle que comunità, hacen sia per los comunicazione comunicados interna que che anche per salen comunicazione y que tratamos de esterna. utilizarlo en Ovviamente medios ci sono, libres utilizzano para anche que tutte ellos le forme transmitan esa scritte, información. Ya no comunicati e confiamos testi. ni en las